quando per ria sventura nuovo accidente mai ne dispartisse. Mi doro, e come mai qui ti rivedo? Non so ancor si lo credo. Ma Angelica, tu ve? Qui vi mi pose di ritornar. Io quasi volia dir che tu per me dovessi rivenire. Ma sia pur qual si voglia la cagione, sempre aperta per te la mia magione. Gelato star procuro, perché Orlando ti cerca, e per te ho gran paura, se ben son malgradito.